coltello, tagliere il pane. Che morbo, si può aggiungere qua. Quotidianamente noi si fa tardi di sera, nella mattina cogniamo il caldo delle lenzuola, ma di una notte brava che diventa mera, speranza di un domani storico, tardi comincia la danza. Ed è così che operiamo, concetto antropologico, il pomeriggio già mattina, il tardi non esiste. Coltello, tagliere, pane, coltello del salame, più soldi fuori del serpame, settimanalmente noi consultiamo il nostro preferito erdomadario scientifico per dormitore, figli della lotta di classe per un salame più fresco, mi vesto ed esco. L'orologio segna le sei, un iridato tramonto si staglia nelle nostre menti nude, ologrammi, società malata. Coltello, tagliere, pane, coltello del salame, più soldi fuori del serpame. Salsicce sono una bomba, dove pigliate? Poi sei vicino a Viterbo, Rocca a Bustarsi. No, lì c'è abita mio nonno, il colonnello. Ah, davvero? Sì, sì. A proposito, ma li conosci Scullempa... non mi ricordo. Cavoli, gli Scullempa rapsidico! Oh, sono taglio quelli! Quelli, quella firma dei imbecilli che non sa chi sono. Avevano quella faccia di cazzo al coso, cazzicarelli. Cos'è quel pezzo che parla del fatto che il mattino non esiste? Che noi ne siamo soltanto i figli della società che ci appartiene, capito, no? Io so fare. Ma che sta a farne di cazzo? Ma guarda, ma è merda. Sta ridotto per il morcio di lei, guardalo. Guarda, la senti? Oh, e sta a sentire, oh! Sì, sì. Coltello, tagliere, pane, il budello del salame, chiuso al di fuori del ciarpame, odora come piedi di cane. Cazzo, non mi ricordo più gli accordi. Vabbè, passami la vodka. Quale vuoi? Quella al melone no.